come brezza è lo spirito, come il vento è lo spirito, come il fuoco è lo spirito, come luce è lo spirito, come acqua è lo spirito, come olio è lo spirito. Santo Spirito, vieni, oh Spirito, Santo Spirito, vieni, oh Spirito, Santo Spirito. Santo Spirito, come